Friuli nel mondo, 236esima trasmissione dedicata agli emigrati. Scrittori della nostra terra, Riedo Puppo. Nella fiorita di poeti e di prosatori spuntata dopo il secondo conflitto mondiale in Friuli, è fuori dubbio che Riedo Puppo, del gruppo Risultive, domina nel campo della narrativa friulana di questi ultimi 25 anni. A confermare questa nostra convinzione non è soltanto la fortunata sesta edizione delle sue Conte, intitolata Par un pel, ma anche il giudizio di critici che definiscono l'opera del Puppo degna del migliore premio della narrativa italiana, se, come dice padre Davide Turoldo, si potesse trovare un traduttore altrettanto ricco di ispirazione quanto lo è l'autore. Sono tipi, momenti, luoghi, visioni del suo Friuli che Puppo ritrae e presenta con ineguagliabile schiettezza di realismo e di profonda umanità. Ascoltate, cari emigrati, questo brioso racconto che richiama così da vicino il mondo di una non lontana emigrazione nei confinanti paesi dell'Austria. Quai di Martrent. Il lavoro a Martrent al cominciave de nandì e al finive dopo la tamon soreli. In tunore sul misdì si veve di quei la polente, mangiale, polsà e fale. Il cogo agliere bidin. Lui alveve diritto di dismontare un quart'ore prima dall'orari. Parlava la chialderie e chioli laghe te fontane che iere sul chianton de prime chiase dal país. E agliere cecori a rote di quel, iu paltroi da urde baracche, e por torna su sfla da santa soffla, sborrea e mesedale, parce che a misdì e dis, e veve dieci pronte, che arrivava in che gli altri a tagliale e dividile. Bidin alveve preparata anche un archet, con un biel fil di fiar zingat, che non si ingrusinive mai. L'igiene, prima di tutto, all'usave di. E di po' altri scoglieri a Martrent, par troppo tempo hai al fatto il cogo bidin. E sintipo, Pio e compagnie, tu l'avevi sol cur di fa cori il puer bidin fin l'aiude fontane a chioli laghe. Non sfasevi al du. E che poce lì da urde baracche c'è stevi a fa. Bastave para in bande che speleati sverdis ca ieri in parzore laghe, tira un claput par fa schiampa i croz e laghe ieri pronte. Ma Bidin, noi coventà resonà tanta di lung par di sidici, e tutta alle pulite. No avanzavin fetis prime e no avanzavin nanche dopo. Par di la verità, Pio alveve motivato une volte. Ma, e ad almarotic un po' che polente chi mi par. Ma Bidin non rincurà la provocazione e al parferì di la sacola al discorso. Po', une volte fat la boccata, al scugnicchia passulaghe simprite poce, anche di fieste, per non gambiare la Roma. Ma una sera par colpe di un grop, insomma, gli è succeduto così. Pieri Zanor, in che di, al chiappa su l'archetto, e al cominciata a tagliare la polente, che anzi te ieri già un po' disfredate. Ma l'archetto, al chiatadur, e al resta impastanato. Pieri al tira un po', ma l'archetto al diseve quasi di cedi, cence vignin denan. Ma non hai tu sfarinate, uè, che polente chi? Disse al Pieri. Po' sì che le hai sfarinate, gli salì il cogo. Dammi ca' mimo. Bidin al provato tira su, ma noi vignive nanchi a lui. Al de un tiron, e dute la polente si muove come ne far cadice, quando che butte su. Ma il fil di fiar non vignin denan. Non sarà mica ciment, disse al Pio. Dammi ca' mi. E con un tiron a sbrega fur miece polente. Il grop al svola paraier fin sotto dai tras e po' al tornaiu come un plom. Bidin lui lampà prima che arriva a spartiare. Un crot malor. E cumò ci aio di fati, disse al Pio calveve mans come palotis. Crescimi la pae, disse al Bidin, o fammi un trivel pluifis. C'è trivel? Tu savaras che io chiappi su si laghe te poce, ma prima di mettere te chialderie, la triveli simpri, partire fuori croz, e non puoi scappince maniere che la diesimi passat che lì. all'iere di Band su Stasi, a cambiare in cogo, ma dopo qualche dì la polente e tornasse a vedi Marotit un'altra volta. E taluno degli orrori incontrati personaggi riappare nel racconto che adesso vi sarà letto e che si riferisce ad un periodo drammatico della nostra patria durante la guerra 1915-18. L'armistizio dal Sedis. Io ho fatto l'armistizio con l'Austria, la villa di Nadal dal Sedis. O ieri in sul Trentin, un po' scà e un po' slà, te sbusis, pantan, fred, fan, pedoi, organizzazione italiana. Basta di che par savedi c'è bande che ieri l'Austria o scugnivi in domanda ai mux dal paese lì. Venga sinistà. E ieri la villa di Nadal, in che sere nessun traeve, né no, né i mux là di là. Rangio special e sgnape ad ucci. Proprio a me mi attocchia di l'aiute baracche dagli ufficiai, che ieri in prime linee da ur, a cioli fiasche che non svevin in prometuz. Con me all'iere un fresco di lezza che la sgnape noi leve. Ben, ho sin laziù e ho sin tornaz cagliere scur come un bocce. Io ovevi liquidate già la me parte, che di fresc è la prionte che non svevin dade e ho invevi rangiato nei miei geburacce tanti fa Nadal. Fresc alveve un fred calcricave. Io ho escognuto tiraiù la manteline e disbatonami la chiamese. Lui ciò, plen di fred, al talpinave c'è cal podeve. Ui stave da ur. Lo hai perduto e hai escognuto lassù di besol. O hai chiaminato gli soris. Ogni tanto mi sentavi sulla neve e mi pareva di ricreami. Ben, par fare curte, a forza di girà, ho chiatato une buse sotto di une ciopere ed entri io. Po' notti vi odio tre militari scatrincavin come agnocis. Quando che mi lampi in me, ammolin gli stacis e alcin gli smans. Po' noi erino mux. Io allora ho alcin gli smans anche io. Se pace che di chiocco sedi, io non piard mai sentiments. E urdista allora patuà. Con budensi! Di nulla seso. Di Martren, mi disse il prindenan. Di Martren. Io co ieri stat si età in savore lassù col Binter, con Pio Selle, ciò sulla Pieri Zanor. Ma cui di Martren? Io o soi Hans Schneider, mi risquinto. Saveso che mi è venuto il sangloccio? Signor Paron, non mi conosci al. Agnul! Non si visi al di Agnul, dal Prenar! Po Schneider, no ieri al mio paron di Martren. Un uomo ti disio come il bon pan. Allora mi capisco, o ti rinju gli smans di chi doi, si imbracin e io bevi. L'orte me buracce e io tal caratelut la cavevi in Sligovic. Ciò, ma uere e ie uere e io ho escugnu di uralve. Signor paron, sai al coai ordin di distripai us duch? Parce con se sbarbas nemis secolars dall'Italia. E no, disse al Schneider, ho in ordine di faius fur, parce con se traditors, e anche muovesse il coraggio di pratindi di usurpanus trente triest. O si chialin in muse un cul'altri. Agnu, calaman, disse al Schneider, e se tu ascurdi trainus antimone sclopetade, non ti tempui a vore. E lui, cal stei attenta ce cal fa, sai al. Se no, gambì paron e voi a voi a Clanfurt. Din che sere che il calascugnuz sta lì, sì, ma uere non da fate. Con la stessa semplicità e fluidità di linguaggio, ecco come Puppo vi presenta ora. I zimuluz dal Cuet. Di picciul lo han vut clamat checo a disevin, ma nessun si visave di un sigur. E neanche nessun saveva di un preciso quando che ieri se chiade la giambe. Chei che son vivi scumò, lo han sentuto acclamare sempre il Cuet. La giambe di Fiar gli avevin adattate a Glemone. Lassù al cognoseve Giolo, un battefiar che inferrava i mui, e quando che la giambe dal dito al faccio si secchia e si scurtà un tocut, e i pendolave senza comandi che non gli era parondie, si rimpinà sulla carete e il mul lo portà a Glemone. Lassù, i batteri in furla giambe nove, un biel tondin di fiar, grueso come un polear, con miege pladine di siele, insomma, sempre di fiar, tutte foropade partiò il pes e anche per rispir. Da Pit immaneare in un cioc di negrum di agaz verdiat di fiar. La gambe flappide la pleare in asquare e la leare in contune cengle tor dal tondin. Al fasè quattro pas di colaudo e nessun di quei che si ieri in daz d'onge al chiatace di. Avio di lui in pis, non faceva neanche dul. Cul cul poiata d'implen sulla sente di fiar, al stave di pape. La giambe buine e funzionava di sbacchio, giuste partigni il equilibrio. Il lavoro gli era une cane, ma che dai bregons nessun l'aveva pensate. Dopo un poco, Duc credeva che avessi bregons di corean come i mux. E invece, e ieri cranie che l'usive. Aveva masse matezze gli avaiu. Un altro matezze, agliere che il dissentasse su un tunetia tre. I tocchiave da rar, magari. Giuste parzuia un esdrume di partidis te ostarie di passel quanto al combinave con la tiadre. S'arrivava a comedarsi ben, neanche un ebinte non lo muoveva. L'issos feminis, non si provavin a mandarlo a clamare di sicuro. Andavu di dos feminis lui, noto un colpo, une prime e une dopo. E un slack di fruz, c'è gimui, c'è ugnui. Che anzi, quando che ha zimulato la seconda, all'iere sentat, chi che le assistevin, par buine regole, all'erin acclamalo. Cioè, aninciù, che la femmine lo appoia. Proprio come ho finito la partita e poi ven. Mezz'ora dopo, lo clamarin in premure. Cioè, aninciù, che tu andas un par sorte. All'iere di dilu, un part così adore. Ben, ho finito il radio e dopo ven. Dos oris dopo, qua tornarin a clamalu, all'iere in timoca al paravi uragios. Cioè, aninciù, che tu has doi maschios e une maschie. Allora il cioè, al parte in cala giambe di fiar, si infrontas un chebuine, al fase cricadis cenglis e al va su. Une volte in pis, al spudate man e al scancelato i radios. Po, fur di bevi parducci. O voi su di sal, se no che là, no ferme. E lo sentirin abbatti fis fis il cioc di agaz di lung supe pedrade. «Oh, Checo, c'è ul di?» disse la femmine. Il ciuet quasi quasi s'ingropà par vie che l'uveva inclamat Checo. I tirare in fuori Gimuluz e allora po s'ingropà dal dut. Al tira iu la scufe e iu chialave, mo un mo l'altri che non si muovevin e acragnuzzavin. «Va di, che anza fan!» disse al. E si invia iu pestialis, stratigninsi di ciocà, cu la giambi di fiar. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 236esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ottavio Valerio.